fermato e me ne sono andato. Diciamo che non siamo amici ma ci conosciamo, non è indifferenza ma senso reciproco di presenza. Tempo per lamentarmi non ne ho, neanche per un po' posso permettermi di piangere o lamentare mancanze. Se c'è una cosa che mi manca è la mancanza. Se c'è una cosa che mi manca è solo un po' di nostalgia. Se poi parliamo di bisogni diverso, vedrò di spiegartelo bene. Se poi parliamo di bisogni diverso, vedrò di spiegartelo nel prossimo verso. Il lavoro debilita l'uomo. Benessere in un luogo dove non siano richieste tessere, dove la paura sia di fare male, non di farsi male, o farselo fare, o lasciare stare. Il valutatore deve comunicare al valutato la valutazione, oppure farsene una ragione e suicidarsi. Ma chi sei? Cosa vuoi? Cosa valuti? Ma chi sei? Cosa vuoi? Cosa valuti? Va bene, lo ammetto, odio il capitalismo. Odio il capitalismo.